Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso. Ragnatela d'architetto, dotto tu, se ci caschi non esci più. Un attivio digitale, nuovi dei, attaccati come dei babbei. Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Vivo senza guai, in una casa col wifi. La connessione ottica, la domotica, tu ce l'hai. Senza limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria. Piantagioni verdi idroponiche, intelligenze positroniche. Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Se mi vuoi, rispondi. Se ci sei, rispondi, dai. Vivo senza guai, in una casa con wifi. La connessione ottica, la domotica, tu ce l'hai. Ancora non mi senti di me, ancora non ti trovo, dai. Forse ti ho visto in New York City, forse io non ti ho vista mai. Ancora se ancora se ancora ancora ancora se ancora ancora ancora se ancora ancora ancora baby. Di Florida di ogni ben di Dio, strada aperta e grande luce io. Vivo senza guai, in una casa con wifi. La connessione ottica, la domotica, tu ce l'hai, baby. Forse io non ti ho visto mai. Ancora se ancora se ancora ancora. Ancora se ancora ancora. Ancora se ancora ancora. Ancora bene. Vedi fare di ogni ben di Dio, strada aperta e grande luce, che io.